Signori, chi lucori sa guardare? Signori, chi lucori sa guardare? Dammi tu forza, pimmu. Quando uscirò di qui sarà già spento il sole, la notte mi parrà più chiara del giorno, perché al cuore.